Allora, grazie per essere qui, per essere venuti, per esservi iscritti a questa 10ª edizione della Scuola di Democrazia, Scuola per la Buona Politica, che la Fondazione Basso ha promosso appunto già 10 anni fa. Siamo molto contenti della vostra presenza, della vostra partecipazione, perché quest'anno è particolarmente elevato il numero di voi che avete chiesto di aderire a questo programma, di partecipare a queste lezioni, è molto elevato, e anche molto elevata la componente giovanile, e questo ci rende ancora più contenti. Questa è la dimostrazione, peraltro, che quando si sceglie una linea riflessiva, pacata, argomentativa, che è quella che noi abbiamo scelto dall'inizio, non è vero che non si abbia audience e successo, perché dopo 10 anni che la scuola funziona, avere una così elevata partecipazione, noi lo consideriamo un successo, e quindi consideriamo un successo anche della capacità di riflettere, dell'argomentare, del discutere, del costruire piccole arene pubbliche, piccole agorà, che è l'ispirazione di fondo che ci ha animato quando abbiamo iniziato la scuola di democrazia, che non a caso si chiama Scuola di Democrazia, Scuola per la Buona Politica. Il programma di quest'anno voi l'avete visto, l'avete meditato per decidere appunto di iscrivervi. Lo consideriamo particolarmente significativo e in stretta connessione con il programma che abbiamo già tenuto l'anno passato, che ci ha portato a rileggere i classici e quindi a riproporre una lettura di autori che in questo caso sono autori del secondo Novecento, quindi non così lontani da noi. L'anno scorso addirittura siamo partiti da Hobbes, Rousseau, da autori quindi un po' più lontani. Gli autori di quest'anno sono più vicini a noi, ma sono comunque diventati dei classici. Basti vedere quante volte la citazione delle loro figure, delle loro persone, ricorre anche nella stampa quotidiana. Vorrei anche segnalare un elemento di attualizzazione, di attualità importante del programma di quest'anno, che immagino voi avrete colto, e cioè che partire da Dialettica dell'Illuminismo, come faremo oggi, per approdare passando attraverso Rawls, Hannah Arendt, Habermas, Foucault, approderemo poi a Bobbio, al suo ragionamento sull'età dei diritti, ha un significato importante in relazione alla crisi della democrazia oggi e a tutti i discorsi che si fanno ormai intensissimi, numerosi, ma anche a elevata intensità analitica sul populismo, anzi meglio dire sui populismi e su tutte le tematiche connesse. E sentiremo oggi, adesso lascerò la parola a Gabriella Turnaturi, che coordina questo dibattito, e ai due professori Giacomo Marramao e Stefano Petrucciani, ma probabilmente sentiremo anche tornare degli argomenti che sono legati a un'analisi del populismo che già ci fu negli anni 30 e a quindi anche a delle tematiche che ritornano oggi, che ci assillano oggi, sulle quali bisogna adottare lenti non banali e soprattutto non cedere a demonizzazioni e a letture che possono semplicemente esorcizzare il problema senza portarci a una vera riflessione. Io quindi vi ringrazio tantissimo, speriamo che il percorso di questi incontri mensili, che durerà 6 mesi, sia veramente molto ricco e fruttuoso, come noi ci auguriamo. Grazie. Il mio ruolo oggi è soltanto quella, diciamo, di coordinare argomento e di guidare un po' il dibattito. Però prima di dare la parola sia a Giacomo Marramao che a Stefano Petrucciani, vorrei dire proprio due parole per coloro che magari, come dire, avessero dimenticato oppure per percorsi diversi non avessero molto presente in che momento, come dire, si inquadra la scrittura della dialettica dell'illuminismo. Immagino che tutti quanti però abbiate sentito parlare della scuola di Francoforte, ecco, di cui hanno fatto parte Horkheimer e Adorno, anzi Horkheimer ne è stato anche il direttore nel 1931. La scuola venne fondata nel 1923, Horkheimer direttore nel 1931, ma nel 1933 venne già chiusa durante il nazismo. Perché era nata questa scuola? Era nata con un intento molto interessante e che secondo me adesso sentiremo anche loro, caratterizza poi tutta la scuola di Francoforte, anche quando i francofortesi si disperderanno, andranno negli Stati Uniti. È quello di rinnovare la ricerca sociale, rinnovarla nell'alveo del marxismo, ma accogliendo però dentro di sé, come dire, tutte le correnti filosofiche e culturali di quegli anni, che erano molto vivaci, come per esempio la psicanalisi, per dirne una. Ecco, la dialettica dell'illuminismo è scritta nel 1947 ed è importante sottolineare che venga scritta negli Stati Uniti, e anche su questo io immagino che i nostri relatori ci mostreranno di più il perché di questo nesso. Io voglio soltanto dire due cose. Una su quando si parla della scuola di Francoforte, e in particolare di Horkheimer e Adorno, si parla come fondatori della teoria critica, di cui poi, come dire, ne ha fatto parte Habermas e così via. Allora, ma quando diciamo teoria critica, che cosa intendiamo? Anche perché immaginiamo che chiunque faccia ricerca sociale, come dire, abbia uno sguardo critico sulla società. Ahimè, non è proprio così. Comunque, per teoria critica, nel senso appunto diciamo più classico, si intende proprio questo forte intreccio di ricerca sociale, psicanalisi, filosofia, la quale ha un intento che non è tanto quello della discrezione oppure della illustrazione, diciamo, della fenomenologia della società, quanto quella di ritrovare delle possibilità di emancipazione che sono insite, diciamo, nella società stessa. Quindi da una parte c'è una critica anche molto dura al capitalismo, anzi ai nessi che legano, come dire, la nascita, come dire, le civiltà occidentali, l'illuminismo, il capitalismo, ma nello stesso tempo, come dire, di vedere all'interno di questo processo quali sono state, quali possono essere ancora oggi le istanze emancipative. Loro parlano molto spesso di possibilità invece delle possibilità della storia. Concludo con, come dire, i due punti cardine della scuola, ma soprattutto, come dire, del testo che oggi andiamo a affrontare, che lo affrontiamo perché è un classico della critica, appunto, della critica dell'illuminismo, è che uno, che non tutto è dominabile dalla ragione. E già questo, come dire, è un passo, diciamo, molto importante, perché sia nel mondo esterno che nel mondo interno Horkheimer e Adorno riconoscono, come dire, che ci sono delle ambivalenze, degli lati oscuri che, come dire, non si possono assolutamente trascurare. Questo non, e quindi c'è anche una certa ripresa del pensiero magico, del pensiero religioso, senza ovviamente nessuna concezione all'irrazionalismo valori di questo tipo, quanto piuttosto quello di vedere quali sono state le problematiche, come dire, di un eccesso di razionalità. In questo diciamo non sono lontani, riprendono credo anche l'insegnamento di Weber. L'altro punto, che credo che sia un po' il punto centrale sulla quale oggi discuteremo, è questa, diciamo, individuare questo nesso estricabile fra la ragione e il dominio. Allora, a parlarci di queste poche cosette saranno Stefano Petrucciani, che è ordinario di filosofia politica all'Università della Sapienza, è direttore del Dipartimento di Filosofia, presidente della Società Italiana di Filosofia Politica, ha pubblicato numerosi saggi, fra cui io ricordo soltanto, come dire, i più recenti, l'introduzione ad Adorno, modelli di filosofia politica. Puoi fare vedere? Chi vuole approfondire. modelli di filosofia politica, Marx, e poi mi sembra che hai curato anche, come dire, un'introduzione delle, dei volumi di Marx. Sì, una storia del marxismo. Giacomo Amaramao, che è professore ordinario di filosofia politica e di filosofia teoretica all'Università Roma III ed è il nostro, posso dire, amato direttore scientifico della Fondazione, ha oltretutto avuto numerosi riconoscimenti all'estero, di cui io elenco soltanto uno degli ultimi, cioè la laurea honoris causa all'Università di Cordoba in Argentina. Anche Giacomo Amaramao ha scritto numerosissimi saggi, per cui io mi limiterò soltanto, come dire, agli ultimissimi, fra cui Dopo il Leviatano, Individuo e Comunità, Contro il potere, filosofia e scrittura, e Passaggio a Occidente, filosofia e globalizzazione. Così come ci siamo messi d'accordo con i due relatori, io darei innanzitutto la parola proprio al professor Amaramao. Dal momento che per me l'argomento di questa incontro della scuola di politica, la dialettica dell'illuminismo, non è stato soltanto nella mia biografia oggetto di studio, ma elemento di formazione, cercherò di fare un discorso non propriamente come dire accademico, ma un discorso che tenterà di mettere in rapporto le tesi che Horkheimer e Adorno hanno messo in campo con quest'opera e i nostri problemi attuali. E quindi farò un discorso molto, se volete, attualizzante. Però prima di andare al testo, vorrei riprendere l'inquadramento che Gabriela Turnaturi prima faceva di quel gruppo, di quel laboratorio di idee che loro amavano chiamare critiche theorie, teoria critica per l'appunto. Mai loro non hanno mai accettato la definizione di Frankfurter Schule, scuola di Francoforte, perché non ritenevano che fosse una scuola, perché una scuola in qualche modo si basa su una certa omogeneità dei partecipanti, mentre loro sottolineavano la individualità, rigorosa individualità degli apporti di ciascuno, con l'unica straordinaria eccezione di questo libro che, badate bene, è scritto realmente a quattro mani. Ovviamente si può notare, è stato notato anche con attenzione filologica, quali sono le parti o le pagine addirittura dovute ad Adorno e quali ad Horkheimer, però tutto sommato loro l'hanno sempre presentato come un'opera fatta insieme. E non è una scuola perché raccoglieva, come alcuni di voi già sanno, sicuramente anche meglio di me, raccoglieva intellettuali di diversa provenienza, e cioè un berlinese come Marcuse, di tutt'altra formazione, se volete anche molto più legato alla tradizione heideggeriana per alcuni versi, una personalità straordinaria come Walter Benjamin, un altro, nell'ambito, per restare all'ambito della filosofia. Intellettuali come a grandi teorici dell'economia, in primo luogo il grande fraterno amico di Horkheimer, che poi prende casa con lui alla fine in Svizzera, Friedrich Pollock, al quale il libro è dedicato. Molto omogeneo ad Adorno e ad Horkheimer, e e però altri come Erich Grossmann, Franz Borchnau, che erano dei teorici dell'economia e della società, in particolare Grossmann studioso di Marx, molto attento allo studio di Marx, che avevano posizioni differentissime da quella dei due, diciamo, i due capofila della teoria critica, Horkheimer e Adorno. Abbiamo due grandi studiosi di politica, che poi avrebbero avuto un futuro di grande rilievo negli Stati Uniti, Franz Neumann e Otto Kirchheimer, la cui analisi dei processi sociali e politici è, qui va detto, molto differente da quella di Horkheimer e Adorno, da quella che è delineata in Dialettica dell'Illuminismo. E poi la psicologia, la psicoanalisi, non dimentichiamo che il confronto con la psicoanalisi è fondamentale in Adorno e Horkheimer, però abbiamo Bruno Bettelheim, Erich Fromm. E badate bene, questa diciamo, intreccio transdisciplinare ha permesso a questi autori di aprire nuovi campi, che erano in qualche modo resi possibili anche da una lettura di Marx che era filtrata, lo accennava prima Gabriela Tondaturi, era filtrata dalla lettura di Weber e di Lukács, del giovane Lukács, quello di Storia e coscienza di classe. Insisterei molto su questo punto, un rinnovamento dell'analisi dello sviluppo capitalistico che passa attraverso una rilettura attentissima dei testi weberiani e quindi anche del concetto di razionalità, poi lo vedremo, e di una intreccio tra questa lettura e un concetto che Lukács aveva introdotto. In realtà c'è il concetto è in una lettera di Engels, anche c'è, insomma, comunque è il concetto di reificazione di Verdinglichung, che è un modo di intendere una delle caratterizzazioni fondamentali della società capitalistica, che poi è centrale anche nella dialettica dell'illuminismo, no? Il tema del feticismo. La società capitalistica è determinata da un processo di costante feticizzazione di tutti i rapporti. E quindi tutto il grande tema del carattere di feticcio della merce, rapporto tra carattere di feticcio della merce e la reificazione di tutti i rapporti, tutti quanti i rapporti sociali umani. E quindi questo momento di disumanizzazione, voi vedete bene che secondo Horkheimer e Adorno la disumanizzazione, reificazione dei rapporti non si ha malgrado l'illuminismo e il progresso, ma a causa dell'illuminismo e del progresso. E quindi vi è questa tesi molto contestata, secondo me in maniera un po' rozza, da alcuni filosofi romani della precedente generazione, penso a Lucio Colletti, a mio parere, che aveva strumenti troppo poco sofisticati per comprendere la complessità concettuale della dialettica dell'illuminismo. Ma comunque sia, questa tesi per cui il progresso si ribalta in regresso, la civiltà si ribalta in barbarie, perché all'interno della costituzione della idea di civiltà, dell'idea di cultura, dell'idea occidentale di cultura, abbiamo la disumanizzazione, questo elemento di causalizzazione non soltanto delle relazioni sociali, ma dei rapporti tra le persone. che sono mediati dall'idea della forma di equivalente, altro tema di Marx, l'idea dell'equivalenza, l'idea della scambiabilità. Questa realizzazione beffarda dell'eguaglianza nel mondo capitalistico borghese, che è data proprio dall'idea della sostituibilità. Ognuno di noi è un numero, ma se ognuno di noi è un numero, dentro questa idea dell'illuminismo è incapsulata già la dimensione dell'antisemitismo, della espulsione dell'altro come numero. Per usare un termine come dire psicoanalitico, che poi è già implicato dalla stessa idea di reificazione, la reiezione dell'altro, l'altro come reietto, come un soggetto che è come dire fuori della logica dell'identità che caratterizza il potere. Questa logica identitaria che caratterizza il potere è stata oggetto da parte dei francofortesi, uso questa formula riassuntiva, è stato oggetto di studi che hanno avuto un'enorme portata innovativa e che nascono tutti negli anni 30 fondamentalmente, famosi studi sull'autorità e la famiglia naturalmente, che poi giungono nel 1950 al lavoro, alla ricerca sulla personalità autoritaria, che è curato proprio da Adorno, quest'ultimo, al 1950. No? E poi l'analisi, che poi appunto ritroviamo anche nella dialettica dell'illuminismo, sull'industria culturale. Si può dire che il laboratorio della teoria critica francofortese è il primo laboratorio che abbia come dire messo a fuoco il passaggio dalla società liberale tradizionale, liberale classica, e quindi di élite fondata su una divisione di tipo elitario della stratificazione sociale, a una società di massa vera e propria, società proprio appunto di massa vera e propria. Andiamo un attimo allora alla dialettica dell'illuminismo, e da questo punto di vista un'opera emblematica della teoria critica francofortese. E un accenno ancora sulla storia. Nel 1931 Horkheimer prende la direzione dell'Istituto per la ricerca sociale, dell'Institut für Sozialforschung di Francoforte, che però era nato, diceva prima Gabriella, nel 1923. Chi l'aveva fatto nascere? Un grandissimo intellettuale, studioso del socialismo e del movimento operaio, Karl Grünberg, che mette su un archivio per la storia del socialismo, del movimento operaio, che tra l'altro la biblioteca Basso a qui appunto per intero, penso, grazie a fondi che erano stati iniziati da Lelio Basso stesso e larga parte poi completati da chi vi sta parlando, nel senso che tutta una serie di riviste che Basso aveva iniziato a raccogliere, a collezionare, poi sono state appunto trovate, tutta la Zeitschrift für Sozialforschung, la rivista per la ricerca sociale, trovate l'Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, l'archivio di scienza politica e politica sociale, di scienza sociale e politica sociale di Max Weber, trovate la Neue Zeit di Kautsky, troviate la Zeitschrift für Sozialismus, che è un proseguimento di quelle tematiche, trovate Die Gesellschaft, la rivista di Hilferding. Diciamo che sono tutte quante una serie di strumenti che servono a inquadrare la teoria critica francofortese all'interno di una cultura che era variamente legata al marxismo, al socialismo e al movimento operaio. terminato l'inquadramento andiamo rapidamente ad alcuni aspetti del testo. È un'opera che potremmo considerare un insieme di frammenti. E nasce più o meno nel 1942, siamo nel pieno della guerra in America, l'osservatorio americano è quello che consente ai francofortesi di comprendere le trasformazioni della società di massa, per l'appunto il passaggio anzi alla società di massa. Adorno poi appunto scriverà delle cose straordinarie in un'opera successiva, una delle più grandi opere del Novecento, che sono I Minima Moralia, e quindi è una sorta di complesso di frammenti che inizia nel 1942 e che doveva essere nelle loro intenzioni una sorta di introduzione a una teoria della società, La introduzione alla prima edizione, alla prima versione di fatto, che precede di alcuni anni la prima edizione del 47, è del 1944. E poi vi è una versione in qualche modo non riveduta, ma con una nuova prefazione, a pochi mesi dalla morte improvvisa di Adorno, del 1969. L'edizione italiana, almeno quella che io ho, con una traduzione spesso da rivedere in larghe parti, e in qualche modo tiene, è la ristampa diciamo fedele della edizione del 1947, e con l'aggiunta della premessa alla edizione tedesca del 1969. E perché dico questo? Perché i due autori, molto, come dire, anche molto, molto, diciamo, autoconsapevoli, cioè dotati di una consapevolezza del proprio standard intellettuale, erano però molto anche autocritici. Guardate bene, intanto nella premessa alla seconda edizione del 69, loro dicono: non serbiamo, è difficile trovarlo, soprattutto diciamo presso i filosofi, non serbiamo una immutata adesione a tutto ciò che è detto nel libro. Cioè non riteniamo che tutto quello che abbiamo scritto sia ancora valido. Passato il tempo però è. Vedremo poi appunto in che consiste questa differenziazione. E dicono ancora: in non poche parti la formulazione non è più adeguata alla realtà di oggi. Guardate bene, non è più adeguata alla realtà di oggi. E tuttavia si deve dire che questa opera è un'opera che aveva in realtà anticipato molte cose e aveva messo a fuoco i problemi del mondo occidentale, ma non soltanto del mondo occidentale, in maniera molto più lucida di tante altre opere, anche sociologiche. Il problema del totalitarismo, e qui naturalmente si intreccia molto con l'analisi di Hannah Arendt, non correva grande simpatia tra Adorno e l'Arendt, tra parentesi. Horkheimer la prendeva un po' in giro, erano terribili i due. E ci sono delle lettere degli scambi spaventosi tra l'Arendt e Adorno, riguardo soprattutto alla interpretazione di alcuni testi beniaminiani, la definizione dell'opera beniaminiana. Però il totalitarismo è sicuramente un tema che nasce all'interno della teoria critica francofortese. E la tesi che sta alla base dell'opera arentiana sulle origini del totalitarismo, cioè il crollo del sistema classista, deriva pari pari dal dibattito interno alla teoria critica francofortese, che aveva in questo anticipato molte cose. E quindi l'idea di un mondo ormai globalizzato è un'idea che Adorno e Horkheimer colgono con molta maggiore lucidità di tanti altri pensatori. Un'idea poi che economicamente viene, dal punto di vista della teoria economica, viene stilizzata, formalizzata dai lavori di Pollock, ma è una tesi che viene esposta da loro con molta maggiore chiarezza e lucidità di quanto non accadeva ad altri grandi pensatori, appunto tedeschi del periodo fra le due guerre, molto noti, da Heidegger a Carl Schmitt, che pure hanno dato dei contributi importanti riguardo al mutamento della struttura del mondo, ma non con la stessa chiarezza di Horkheimer e Adorno, anche perché Horkheimer e Adorno hanno sottolineato, ripeto, le implicazioni molteplici dell'avvento della società di massa. Che cosa intendono? Andiamo adesso al titolo, ovviamente. Che cosa intendono loro con illuminismo? C'è una frase, non sto a prendere tutti i brani, ma comunque c'è una frase molto bella che cui loro dicono: l'illuminismo è un termine che va assunto ovviamente non come un periodo storico, no? È ovvio, lo sa. Anzi, mi scuso per coloro che sono già esperti del tema. L'illuminismo non è il periodo storico identificato con questo termine, normalmente il pensiero dei lumi del Settecento, ma loro dicono nel senso più ampio è il pensiero in continuo progresso. E loro dicono l'illuminismo nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra, guardate com'è bella questa espressione, ma la terra interamente illuminata splende all'insegna della trionfale sventura. È splendida questa frase, splendida e terribile al tempo stesso, perché loro proprio qui loro pongono il tema, cioè vi è un rapporto stretto tra il cielo del concetto che illumina, vedremo poi quanto la filosofia sia in tutto e per tutto corresponsabile di quanto è accaduto, anche questa è una tesi molto rilevante, che in qualche modo questa sia comuna la teoria critica francofortese ad alcuni aspetti heideggeriani, cioè la filosofia è responsabile in pieno di quanto è accaduto, di questa sorta di cortocircuito tra il cielo e l'inferno. Il cielo è divenuto infernale. Cielo e inferno sono strettamente legati tra loro, no? E questo sa significare che tutto ciò che i critici della cultura, della civiltà, avevano attribuito all'irrazionalismo non è altro che il prodotto di un delirio della ragione. Cioè non è vero irrazionale. Cioè, e quindi la chiave interpretativa dell'irrazionalismo viene come dire, tolta di mezzo. Perché non è altro quello che chiamiamo il razionalismo che la ragione divenuta totalitaria. E questa ragione illuminista divenuta totalitaria è stata colta nelle sue implicazioni estreme, no? Dagli autori noir dell'illuminismo. Il Marchese de Sade, e guardate quanto, se pensate all'ultimo lavoro di Pasolini, no? Che è proprio su Sade, no? come colui che ha colto la radice estrema dei fenomeni di potere, no? E naturalmente qui loro recuperano anche Nietzsche, loro teorici critici legati a Marx, che rilanciano la tematica di Marx della forma di merce sulla scena sulla scena della società appunto totale, globale, loro su questo punto recuperano Nietzsche, perché Nietzsche ha colto l'aspetto distruttivo del progresso e ha colto anche l'aspetto, come dire, che lega il concetto illuminista di libertà all'idea di autoconservazione, Abbiamo qui diciamo, l'altro aspetto della tesi del libro, il nesso tra illuminismo e mito, tema del rapporto tra logos e mitos, no? E il distacco del logos dal mitos, uno dei temi dei cavalli di battaglia della filosofia, loro dicono no, in realtà il pensiero razionale non ha mai abbandonato il mito, anzi, si è sempre alimentato del mito. E il peggiore mito è il mito dell'illuminazione razionale. Naturalmente loro in questa idea dell'illuminismo recuperano un tema mitico per eccellenza, che è quello che è tratto dall'Odissea, l'origine dell'illuminismo occidentale, del rischiaramento, anzi, come sarebbe più giusto definire il termine, è nel dodicesimo canto dell'Odissea, quando il rapporto tra Ulisse e le sirene, no? Dove vedete bene che là questa sorta di ambivalenza, no? Quando Ulisse si avvicina al momento dell'incontro con le sirene, cosa fa? Vuole ascoltare il canto delle sirene, che può essere un canto seduttivo all'estremo, fino all'annichilimento e alla morte, no? E però vuole ascoltarlo, fa mettere i tappi alle orecchie, i ceri alle orecchie ai suoi marinai. Lui si fa legare. E qui noi abbiamo questa sorta, dicono Horkheimer, Adorno, divisione che si produce all'interno della razionalità illuministica. Chi guida sa, ma pratica la razionalità in quanto incatenato. Gli altri vanno avanti quindi sono i motori del progresso, proprio in quanto non possono ascoltare l'altro, l'alterità del canto. Naturalmente questo pone un problema, questa idea della razionalità come qualcosa di incatenato, è stato oggetto di studi nell'ambito filosofico e sociologico enorme. C'è uno studioso norvegese molto noto, Jon Elster, che insegna alla Columbia University, ha scritto un libro importante, anzi due libri, uno si chiama Ulisse e le sirene, proprio partendo da questa scena, e poi anche l'altro, mi pare, Ulisse liberato, un altro libro, Ulisse liberato, ha fatto due cose, proprio per affrontare i dilemmi interni al paradigma della razionalità. Ma naturalmente non posso entrare nel merito di questi temi, perché sarebbe un altro tipo di argomento della lezione di politica. La razionalità incatenata è quella che si connette al paradigma della quantità, e quindi il calcolo, la ratio come calcolo, appunto calcolo che è connesso alla equivalenza, come dicevo prima, alla sostituibilità, al dominio del numero, al reame della quantità, dove a un certo punto vi è un passaggio all'interno della dialettica del rischiaramento, dell'illuminismo, in cui loro dicono come Nietzsche aveva colto, cioè il suo superuomo, che in realtà io tradurrei col termine iperumano, Übermensch, intanto Mensch non è l'uomo ma è l'umano, ma uomo e donna insieme, è l'iperumano, quindi non il superuomo nel senso appunto reazionario della parola. Vi è un unico modo per realizzare il superuomo: il passaggio alla qualità, farla finita col dominio della quantità e andare alla qualità. E naturalmente qui abbiamo il problema della loro critica alla scienza, e loro lo dicono ripetutamente: noi non stiamo dicendo che la scienza come forma conoscitiva non vada bene. E molte delle critiche alla dialettica dell'illuminismo sono critiche legate al fatto che pochi l'hanno letta dalla prima all'ultima pagina. Loro dicono: noi non critichiamo la scienza come momento conoscitivo, ma al tempo stesso non diciamo che il problema della scienza è soltanto il problema della sua strumentalizzazione. Il problema è come un certo paradigma scientifico, che è quello del calcolo, della quantità, dell'efficacia, dell'oggettivazione, sia divenuto in Occidente, in particolare in Occidente, il paradigma dominante. Questo paradigma ha determinato un passaggio, ancora un tema loro, dalla potenza del progresso al progresso della potenza. Quella che in origine doveva essere la potenza del progresso si è trasformata nel progresso della potenza, del progredire della potenza, dove la storia motorizzata, la storia della tecnica scienza, della no motorizzata, ha anticipato gli sviluppi intellettuali, e dove anche l'elemento della conservazione si è automatizzato, i meccanismi di autoconservazione del sistema si sono automatizzati. All'interno di questo processo abbiamo una profonda alterazione del linguaggio. Cioè, l'origine di tutto questo, secondo Horkheimer e Adorno, non è soltanto nel progresso tecnico, diciamo tecnologico, ma il progresso tecnologico come momento costitutivo di una metamorfosi che investe direttamente la lingua. E qui sono due piani che devo tenere un attimo distinti, ma molto complessi. Cioè la lingua è due cose. E c'è la parola e due cose, è segno o immagine. A un certo punto è avvenuto nell'ambito dell'illuminismo occidentale una sorta di è un tema molto bello questo, a cui loro sono debitori a Benjamin, a Walter Benjamin, intendiamoci su questo punto. La parola come segno ha dato luogo al dominio simbolico della scienza, in fondo. Che cos'è il numero se non una parola segno giunta all'estremo della astrazione? Il numero è quello, non è altro. E quindi il modello fondamentale del calcolo. E per altro verso la parola immagine, che invece ha fecondato la dimensione artistica. Questo divorzio, in qualche modo, è un elemento costitutivo dell'illuminismo, del pensiero in continuo progresso. Ma all'interno del linguaggio si è determinato, però, soprattutto del linguaggio parlato, del linguaggio scritto, una sorta di reificazione, standardizzazione, reificazione. La reificazione della lingua, la standardizzazione della lingua, come funzione chiave della società di massa, è alla base di un fenomeno nuovo che né Marx poteva prevedere, né potevano prevederlo i grandi pensatori, ovviamente, dell'illuminismo, l'illuminismo del Settecento, l'industria culturale. E l'industria culturale determina una, un momento ancora più profondo, una dimensione ancora più profonda del processo di modellamento delle coscienze. L'industria culturale in qualche modo determina una nuova coscienza collettiva che va molto al di là delle forme di manipolazione del consenso che si conoscevano prima e addirittura costituisce a priori i desideri delle persone della società di masse, costitutiva del desiderio. Ma l'industria culturale, essendo culturale, è fatta di messaggi. Qui Adorno svilupperà tutto, come dicevo prima, nei Minima Moralia. E dentro questo processo della società di massa abbiamo due fenomeni. Abbiamo il fenomeno del terrore esplicito, in cui si manifesta la logica dell'identità, e dell'identità è la logica totale dell'illuminismo, e abbiamo il fenomeno della egemonia via consumo, del dominio attraverso il consumo, che è il modello americano. Guardate bene, qui la scuola di Francoforte, la scuola, la cosiddetta scuola di Francoforte, la teoria critica, dice delle cose molto dure. Cioè, la democrazia americana si differenzia dal nazismo perché adotta dei sistemi più sofisticati. Ma dico una cosa molto simile a quella di Philip Dick. Hanno realizzato il progetto di un dominio attraverso una logica identitaria. Giudizio molto duro questo, ma comunque sia, sono più avanzati rispetto al nazismo, ma ne riproducono la logica dell'identità, fagocitando l'alterità, come massa di consumatori. In ogni caso, il fascismo e il nazismo non sono delle parentesi, non sono come la venuta dell'Ixos di cui parlava Benedetto Croce, solo un elemento costitutivo dell'illuminismo occidentale. E dunque l'antisemitismo è in qualche modo il momento della verità, della autodistruzione dell'illuminismo. È la logica dell'identità totalizzante che perviene all'orrore, che perviene al suo orrore esplicito. Nel dominio americano invece questa logica viene introiettata e diventa in qualche modo una sorta di dominio della autocondizionamento e dell'autocensura da parte dei soggetti. Noi non siamo assoggettati al potere nel senso che non gli crediamo ma dobbiamo chinare il capo, ma nel senso che siamo assoggettati alla seconda potenza, siamo indotti a credere che quello che il potere ci dice fa è il bene, è il nostro bene, è l'unica cosa funzionale alla nostra autoconservazione. È bellissima, se volete, uscendo fuori dal testo della dialettica dell'illuminismo, l'incipit dei Minima Moralia di Adorno, è bellissimo. Quella che un tempo i filosofi chiamavano vita si è ormai ridotta alla sfera del puro consumo. Tutto diventa consumo. La vita passa e è come se l'avessimo consumata. Passa e arriviamo al momento della morte senza riuscire a capire come si è consumata così in fretta. È bellissimo. Un po' riprende un grande tema di Max Weber, no? Un tema che è molto bello. Cioè, davanti a questo processo della razionalizzazione crescente del mondo, no? E mentre un tempo si giungeva sazi alla fine della vita, invece oggi si giunge alla fine della vita e si ha l'impressione che di non averla mai vissuta, che l'abbiamo soltanto consumata. E quella è molto bella, quella che un tempo i filosofi chiamavano vita, è ormai ridotta alla sfera del puro consumo. È consumo della nostra vita, consumo anche delle relazioni, del rapporto con gli altri. Quindi è una fase estremamente radicale del rovesciamento del progresso in regresso. All'interno di questo modello giungerà poi alla fine a dire Adorno nel 1966, quindi 3 anni prima della morte, 3 anni prima della prefazione firmata con Horkheimer alla ultima edizione della dialettica dell'illuminismo, dirà: dentro questo modello viene metabolizzata anche la rivolta. Molti hanno criticato Adorno e Horkheimer, all'epoca, e continuo a criticarli per la loro opposizione radicale al movimento di rivolta degli studenti, ma la tesi di Adorno era molto chiara e molto in continuità con queste tesi, quando dice: la rivolta stessa è metabolizzata dai dispositivi di assorbimento del sistema in chiave autoconservativa. Anzi, addirittura a volte il sistema promuove la rivolta. Allo stesso modo, appunto, con cui, questa era un'analisi di Michel Foucault, il potere in qualche modo induce la delinquenza, induce la precarietà, la delinquenza, in quanto la delinquenza e l'insorgere della criminalità e della delinquenza diventa un fattore fondamentale per legittimare poi la funzione del potere. Guardate bene, dentro questo meccanismo noi abbiamo un campo di forze, se volete, un campo anche di interazioni fra il laboratorio tedesco e quello francese, tra il laboratorio della teoria critica francofortese, il laboratorio parigino che derivava dal vecchio Collège de Sociologie, quello di Bataille, di Caillois, frequentato da Walter Benjamin, con reazioni spesso ambivalenti, un po' critiche, e che porterà poi Foucault in uno degli ultimi, cioè negli ultimi anni della sua vita, a riconoscere nella teoria critica francofortese l'anticipazione di larga parte del lavoro che lui stesso aveva svolto. Vengo alla conclusione. Il potere oggi nella società di massa, o se nella società post-liberale, diciamo così, è determinato da questo pendolarismo di inclusione attraverso il consumo, o se volete lo svago, e terrore. Svago e punizione, consumo e terrore, sono due facce della stessa medaglia. E Adorno dice: sono due facce dell'orrore. Non è che l'orrore è soltanto nella repressione, l'orrore è ancora di più in questa pseudo libertà dello svago. È altrettanto orrida del momento repressivo. E quella che chiamiamo barbarie non è altro che la necessaria conseguenza del modo in cui si è costituita la civiltà occidentale, del modo in cui il logos, il concetto filosofico, ha sin dall'inizio recato in sé per intero una responsabilità dell'orrore finale in cui l'illuminismo è venuto a trovarsi. È una, come vedete, una diagnosi terribile, spietata, ma una diagnosi che ritroviamo nel frammento per la critica della filosofia della storia, quando scrivono: dal momento che la storia, come oggetto di una teoria unitaria, come qualcosa di costruibile, non è il bene ma appunto l'orrore, il pensiero è in realtà un elemento negativo. L'unico modo con cui il pensiero può legittimarsi d'ora in avanti è non proponendo qualcosa di positivo, ma costituendosi come una negatività assoluta rispetto a questa totalità negativa del potere e dell'orrore a cui il pensiero dell'illuminazione totale ci ha condotto. E dovessi dire in 30 secondi quello che io personalmente, per quello che può valere, non condivido di questo, gli esempi che Horkheimer e Adorno mettono in campo in questo libro sono spesso esempi sbagliati. Loro confondono la oggettivazione della natura con la matematizzazione. Uno scienziato direbbe oggi che la matematizzazione è l'unica forma con la quale noi riusciamo a cogliere la complessità dei fenomeni di trasformazione della natura, all'interno dei quali si colloca anche il cambiamento sociale. Cioè un nesso tra natura e società che era pure un'esigenza da cui Horkheimer e Adorno sono partiti. In secondo luogo si appoggiano, per la critica alla scienza moderna, su un testo molto suggestivo ma molto ambiguo, è di Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, che loro citano, è inutile che citi la pagina dell'edizione italiana che non corrisponde alle successive edizioni, che loro citano appunto in ogni caso nella parte dedicata al concetto di illuminismo, e dove con esemplare fraintendimento della rivoluzione scientifica galileiana, Husserl dice che la scienza moderna si sarebbe staccata da quella sorta di integrità che era invece caratteristica del pensiero classico, che era insieme un pensiero filosofico e scientifico, dove l'episteme era collegata a un'etica, a un ethos, eccetera. Tanti sono gli esempi che si potrebbero fare, anche molto sbagliati alcune citazioni, ad esempio Carl Jaspers, un autore che io stimo moltissimo, assimilato ai critici della civiltà in senso banale, quando esattamente dice appunto l'opposto nei suoi lavori. Quindi è un libro da decostruire, ma tuttavia straordinariamente preveggente questa idea di un potere globale che si vale di una inclusione perversa che è segnata dal pendolarismo tra inserimento, integrazione attraverso il consumo e invece momento repressivo. E dunque un grandissimo libro, vi ringrazio. Ora è acceso. Sì, adesso ditemi, ecco, forse così va bene. Bene. Allora, devo dire che anche per me questo libro è stato un libro, diciamo così, di formazione. Non nel senso di Giacomo, che ha avuto anche l'opportunità di stare a Francoforte e vedere da vicino quell'ambiente, ma nel senso invece culturale, perché insomma è un libro che ho scoperto quando facevo la seconda liceo, appunto studiando l'illuminismo. Dico, leggiamoci questo libro sull'illuminismo, che poi ho scoperto che non parlava dell'illuminismo, però parlava di ben altro. E quindi, diciamo, è un libro che mi ha, come dire, folgorato quando l'ho preso in mano da ragazzino, e che ritengo un'opera in qualche modo geniale, insomma, ecco, come diceva ora Giacomo, anche concludendo, un libro di grandissimo fascino, e sicuramente dove c'è una qualche, diciamo, zampata di genialità, quindi un libro destinato in qualche modo a rimanere, un libro che si stacca un pochino da quella che è la produzione, diciamo, più ordinaria. Allora, ed ha una storia molto strana, insomma, questo va detto bene. Perché? Perché, tanto per cominciare, è un libro di filosofia scritto a quattro mani. Allora, ci stanno altri libri di filosofia scritti a quattro mani? Ma secondo me no, cioè grandi libri di filosofia scritti a quattro mani non ce ne sono. Allora, questo che cosa comporta? Beh, comporta una serie di problemi, perché innanzitutto non è firmato in ordine alfabetico, no? Max Horkheimer, Theodor Adorno, è firmato così il libro. Quindi se due persone adesso scrivono un libro, diciamo, a meno che non ci siano rapporti gerarchici pesantissimi, firmano in ordine alfabetico, no? Prima chi comincia per A, ecco, invece questo no. Perché? Perché è un libro che, come dire, nasce dalla testa del capo effettivo della scuola di Francoforte, Max Horkheimer, e il quale prima lo voleva fare con Marcuse, poi lo voleva fare addirittura con Korsch, non si sa con chi, insomma, e alla fine poi lo fa con Adorno. Quindi è un libro a quattro mani, e sicuramente ci stanno dentro, io penso che ci stiano dentro, due filosofie diverse che si incrociano, producendo effetti molto interessanti e producendo anche probabilmente una certa confusione. E non può essere diversamente, insomma, perché appunto non ci sono grandi libri di filosofia scritti a quattro mani, perché uno quando scrive di filosofia segue un filo, no? È difficilissimo poi che questo filo si incroci con il filo che sta seguendo un altro. E quindi dove si vede fortemente la differenza, io vado un po' più nello specifico, dato che le coordinate generali le ha date già benissimo Giacomo, dove si vede fortemente la differenza, per esempio, si vede proprio nei due capitoli, che sono uno di, come si è poi potuto ricostruire, insomma, successivamente, eccetera, eccetera, uno di Adorno e uno di Horkheimer, fondamentalmente. Quello di Adorno è il capitolo su Ulisse, quello di Horkheimer è il capitolo su Sade, Juliette o Illuminismo e Morale. Allora, poi vedremo, insomma, perché questi due blocchi ci danno la differenza anche dei punti di vista degli autori, che pure lavorano insieme, eccetera. È un libro che è venuto così bene perché gli autori, diciamo, come al solito, una disgrazia si è trasformata in una fortuna, perché gli autori sono stati esiliati dalla Germania, ovviamente sono dovuti andare via per il nazismo, eccetera. Poi sono stati un po' a New York, poi a un certo punto neanche Horkheimer non si trovava bene, eccetera. Allora sono finiti in California, dove avevano tutto il tempo per pensare, non avevano altro da fare, e quindi hanno dedicato dei mesi e dei mesi a ragionare su questi temi, e quindi è venuta fuori un'opera, diciamo, che ha tante cose dentro. Ecco, però l'altro aspetto, che secondo me oggi io direi proprio molto drastico, è che questo qui poi è stato un libro, io direi un libro rifiutato dagli autori. Perché? Perché, come ricordava Giacomo, questo libro esce nel 47 presso una casa editrice, credo, insomma, sì, avrà avuto pure un certo prestigio, ma insomma non credo che fosse, che si chiamava Querido Verlag Amsterdam. Dopodiché, dopo il 47, di questo libro non si sa più nulla, cioè il libro sparisce, ok? scompare. Loro continuano a lavorare, scrivono altre cose, Horkheimer e Adorno fanno riferimento, però il libro lo lasciano così, non è che lo ristampano, anzi, addirittura, sapete, la storia è che da chi viene riscoperto questo libro? Questo libro viene riscoperto dal movimento del 68, non in senso letterale, perché viene riscoperto qualche anno prima da quelli che si stavano preparando a fare il movimento del 68. Viene riscoperto alla metà degli anni 60, viene stampato abusivamente, diciamo così, cioè ciclostilato, diffuso, letto, no? Rilegato da una casa editrice pirata, eccetera, eccetera. E poi allora finalmente, dopo tante resistenze, non senza grosse difficoltà, gli autori si decidono a ripubblicarlo, appunto nel 69. Anche sull'edizione italiana hanno fatto un sacco di storie, insomma, no, ecco, adesso non le stiamo a raccontare, ma insomma, perché soprattutto chi è che faceva tutte queste storie? Era Horkheimer, perché insomma non si riconosceva più in questo libro così particolare, eccentrico, radicale, strano, no? Appunto un libro che viene scritto all'inizio degli anni 40, che poi paradossalmente viene riscoperto dai movimenti degli anni 60. Allora, perché viene riscoperto? Beh, qui dico, insomma, secondo il mio punto di vista, viene riscoperto perché è un testo che dà, pur mantenendo un certo ancoraggio, diciamo un forte ancoraggio al marxismo, se volete, ne dà una lettura totalmente radicale, totalmente emancipativa, totalmente anti-autoritaria e con robustissime iniezioni di Nietzsche e di Freud. Sono tra i primi a, diciamo, utilizzare, cosa che poi dopo è stata fatta fino alla nausea, diciamo così, sono tra i primi a utilizzare Nietzsche, diciamo, come un grande lievito di pensiero critico che si può benissimo combinare con quello di Marx e con Freud, eccetera. Quindi un marxismo estremamente vivace, estremamente vitale, no? che allora almeno poteva apparire tale, che consentiva di uscire dalle secche di altre visioni del marxismo che erano invece molto più stanche, culturalmente vecchie, diciamo così, ecco, culturalmente affaticate. E, ecco, quindi questo è un libro veramente molto particolare e ha dentro tanti problemi abbastanza complessi. Allora, intanto, per cominciare, la domanda alla quale il libro vuole rispondere, cioè la domanda alla quale il libro vuole rispondere è detta molto chiaramente nelle prime parti, nelle prefazioni, eccetera, ed è detta in questi termini: quanto ci eravamo proposti era niente meno che comprendere perché l'umanità, invece di entrare in uno stato veramente umano, sprofondi in un nuovo genere di barbarie. Barbarie che appunto non è solo, questo lo dico velocissimamente, che è già stato illustrato meravigliosamente, barbarie che non è solo quella dei campi di sterminio, ma è anche quella della società dei consumi. Citazione: nelle condizioni attuali anche i beni materiali diventano elementi di sventura. Che l'utilitaria e il palazzo dello sport liquidino ottusamente la metafisica sarebbe ancora indifferente, ma che diventino essi stessi nella totalità sociale una nuova metafisica, questo non è indifferente. Ecco, questo è, diciamo, quindi la domanda è questa: ma come, insomma, come su quali linee si cerca la risposta? Ecco, la risposta, appunto, cioè perché l'umanità, diciamo, tecnologicamente emancipata, democraticamente sviluppata, precipita in una nuova condizione di barbarie, la risposta la si cerca con un lavoro che, appunto, fugoltianamente potremmo dire genealogico, e cioè non con una chiave di lettura che proprio non c'è per niente, diciamo, storico contingente, storico sociologica, legata cioè a una serie di fatti della società del XIX secolo, del XX secolo, no, ma la risposta la si cerca appunto andando a risalire alle origini della civiltà occidentale, cioè andando a risalire a cosa c'è che non va, cosa c'è che non funziona nella stessa costituzione dell'uomo occidentale. Questa è l'idea, diciamo così. Cioè non basta più, ci sono un'infinità di motivi insomma per questo, ma non basta più, diciamo, con Marx cercare le colpe nel capitalismo. Bisogna cercarle più indietro, perché abbiamo visto, per esempio con lo stalinismo, che la barbarie sopravvive tranquillamente al capitalismo, che c'è una barbarie anche dove si cerca di andare oltre il capitalismo. Quindi non basta cercare le colpe, diciamo, della catastrofe nella società borghese e nel capitalismo. Bisogna andarsene a cercare molto più indietro. E quindi il tentativo è di risalire allora all'Occidente stesso, no? E dove nasce l'Occidente? Qui è, diciamo così, la zampata geniale di Adorno, perché è lui che, anziché dire, vabbè, un altro avrebbe detto, vabbè, allora pigliamo le origini della filosofia occidentale, cioè una persona, diciamo, dall'intelletto comune avrebbe detto, vabbè, pigliamo le origini della filosofia occidentale e partiamo da là. Invece Adorno dice no, dov'è che comincia la società borghese? Comincia da Adorno, cioè da Ulisse. Comincia da Ulisse. Perché? Perché Ulisse, perché il pensiero, diciamo così, borghese moderno è un pensiero della demitizzazione o del disincanto, Weber, della Entzauberung. Ecco, allora è un pensiero che disincanta e demitizza tutto quanto, il pensiero borghese. È un pensiero che straccia, diciamo, gli idoli, pensate appunto all'illuminismo, quello vero, quello storico, contro la superstizione, contro la chiesa, contro la metafisica, no? Questo c'è nell'illuminismo, l'illuminismo storico ovviamente aborre religione, superstizione e metafisica, no? È per un pensiero materialista, empirista, eccetera, eccetera. Allora, dove comincia la dissoluzione, dove comincia, diciamo, il disincanto, appunto, e quindi il rischiaramento? Beh, il rischiaramento comincia con la distruzione dei miti, con il confronto appunto tra logos e mito. Ma dov'è che si ha questo confronto? Si ha nell'Odissea. Perché? Perché Ulisse, perché la, diciamo, il viaggio di Ulisse è la storia di un confronto tra un individuo volto alla conservazione di sé e una serie di personaggi mitologici o mitici, come le sirene, la maga Circe, Scilla e Cariddi, Polifemo, il gigante, eccetera. E poi con gli dèi che sullo sfondo intervengono. Allora, è la lotta che Ulisse ingaggia contro i mostri mitici, contro le figure magico-mitiche, è assurta a simbolo del primo grande processo di disincantamento del mondo, diciamo così. È una metafora, per esempio, della distruzione che il positivismo farà della metafisica, perché qui è una ragione che distrugge appunto delle credenze superstiziose, mitiche, eccetera. E in una forma molto particolare, appunto, nella forma della narrazione, dove l'eroe si confronta con questi mostri e li sconfigge grazie a che cosa? Grazie alla sua astuzia, in greco metis, no? E cioè la capacità di, che cos'è l'astuzia? Beh, insomma, è la capacità di aggirare l'ostacolo, di vincere, diciamo così, anche ingannando e raggirando. Per esempio, Ulisse è l'inventore dello stratagemma del cavallo di Troia. Quindi è l'astuzia è il simbolo di una ragione, appunto, che raggiunge i suoi obiettivi, diciamo, in modo anche molto eticamente scanzonato, no? Ecco, e allora che cos'altro impariamo, diciamo, da questo? Allora, quello che diceva già, che ricordava già Giacomo, e cioè come nasce, diciamo, questa figura della ragione che distrugge i miti e le superstizioni e che mira soltanto alla e diventa uno strumento di autoaffermazione, no? Bene, nasce in modo fortemente ambivalente. Perché? Perché per ottenere questo è necessario che siano compiute una serie di operazioni di dominio. Appunto, Ulisse, per non cedere al canto delle sirene, si deve legare, cioè in sostanza la ragione lucida e disincantata, volta all'autoconservazione, nasce sulla base di una triplice repressione. Questa è la tesi del libro, e cioè la repressione di sé, Ulisse che si lega, la cancellazione dei propri impulsi, la cancellazione delle proprie debolezze, delle proprie tentazioni regressive, cioè bastonare tutto ciò che non è, bastonare nell'individuo tutto ciò che non è, tendere lucidamente sempre all'autoaffermazione senza cedere mai un momento, no? Ecco, qui ovviamente c'è moltissimo Freud. La repressione pulsionale è una condizione della civiltà. Tutto questo Freud, a mio modo di vedere, è anche molto datato, diciamo così, però ciò non toglie che il punto ci sia, insomma, cioè l'individuo razionale è un individuo che si sviluppa innanzitutto reprimendo tutta una serie di dimensioni del se stesso, e poi appunto, quindi la dimensione del dominio su di sé, del dominio sulla natura, no? E la dimensione del dominio sugli altri, della divisione in classi della società. Appunto quello che diceva benissimo Giacomo, Ulisse e i rematori che con le orecchie tappate e la testa bassa, no? Vanno avanti e remano per portare avanti la nave nel suo percorso senza farsi deviare dal miraggio delle sirene, no? Quindi la ragione dell'individuo, diciamo, scaltro, astuto e non più preda delle superstizioni, delle mitologie, delle illusioni, è una ragione che nasce sulla base di una triplice repressione. Quindi è una ragione strettamente, come diceva fin dall'inizio del nostro incontro Gabriella, è una ragione strettamente intrecciata con dei processi di dominio. Non c'è se non ci sono questi processi di dominio. Quindi, che significa questo? Beh, significa però, e qua è il punto, diciamo, dove la lettura che do io, ma anche quella che dà Giacomo, si distingue da moltissime letture che sono state date e che secondo me non sono esatte proprio. Però questa ragione appunto è fortemente ambivalente. La ragione non è cattiva, non è la cattiveria. La ragione è un processo di fortemente ambivalente, perché è un processo di emancipazione da una serie di asservimenti, che però è possibile solo attraverso un'altra serie di processi di dominazione. Cioè è come se fosse condannata, diciamo così, a essere sempre un processo a somma zero, perché ti sei liberato dalla credenza nei maghi e in tutta quella roba lì, però ti sei dato delle altre catene per liberarti dalla credenza nei maghi, che sono delle catene pesanti. Quindi c'è, come dire, una tendenza emancipativa della ragione che però al tempo stesso non si attua mai, perché nel ricercare questa emancipazione poi ritorna, lo fa attraverso strumenti che ricostituiscono delle forme di dominazione. Ecco, per esempio, lo stesso discorso appunto si può applicare al tema dello scambio del denaro, no? Che giustamente loro dicono: se Ulisse è il primo uomo borghese, beh, deve avere qualcosa a che fare con lo scambio, e infatti tutto sommato ce l'ha, perché è un viaggiatore. E chi è che viaggia in quell'epoca lì? Beh, viaggiano i mercanti, quelli che cercano di guadagnare scambiando, comprando di qua in un punto del Mediterraneo, vendendo da un'altra parte. Dunque l'uomo sganciato, diciamo così, dalla sua radice comunitaria eccetera, ha molto a che fare con lo scambio. Ma che cos'è lo scambio? Appunto, lo scambio è quindi emancipazione da una sottomissione di tipo naturale o personale quindi una emancipazione che però viene guadagnata sottomettendosi ad una legge causale. Quindi ti emancipi da una dipendenza personale, ma attraverso una costituendo però una dipendenza impersonale. Ecco, dunque, quindi questo movimento, diciamo, della ragione borghese moderna, di cui si vedono già le origini, appunto in Ulisse, non è il movimento di una ragione che è uguale al dominio, come hanno creduto tutti quelli che hanno letto, diciamo, in modo insipiente questi testi. È un movimento profondamente dialettico, se no non si chiamerebbe dialettica dell'illuminismo. Cosa significa dialettica dell'illuminismo? Dialettica dell'illuminismo significa sì che l'illuminismo si capovolge, ecco il movimento dialettico, si capovolge in asservimento, quindi l'illuminismo vuole emancipare gli uomini ma lo fa capovolgendosi di nuovo in asservimento, però significa anche che l'illuminismo stesso può andare oltre questo asservimento, quindi che questa, cioè, il momento emancipativo che esso contiene, diciamo così, deve diventare cosciente e portarci oltre questo asservimento. Dunque, ecco, il punto, quindi questo è un po' il lato più adorniano, diciamo così, della dialettica dell'illuminismo, cioè la dialettica dell'illuminismo vista attraverso il capitolo su Ulisse. Poi, diciamo, se la vediamo invece di più attraverso il capitolo su Sad, diciamo così, il capitolo orcaimeriano, quello che viene più in risalto è questa dinamica, è la dinamica, diciamo così, che io chiamerei veramente nichilistica della ragione strumentale, cioè il processo di, a che cosa dà luogo il processo di consumazione, diciamo, di tutte le superstizioni, di tutte le credenze, quindi magiche, mitiche, religiose e anche metafisiche, perché poi appunto con l'illuminismo settecentesco è un attacco a tutto campo, alla precedente metafisica, per esempio leibniziana, cartesiana, wolfiana, eccetera. Allora, ecco, a che cosa dà luogo? Dà luogo a un processo di distruzione, diciamo così, nel quale quello che rimane in piedi è appunto soltanto la ragione intesa come strumento di calcolo, e cioè quella che soprattutto Horkheimer chiama la ragione strumentale. Ovviamente qui c'è dietro moltissimo Max Weber, perché appunto è lo stesso Weber che distingue, diciamo, la razionalità valoriale o sostanziale dalla razionalità strumentale, la razionalità a mezzi fini. Allora, quello che appunto Horkheimer e Adorno sostengono è che nel processo dell'illuminismo quello che resta in piedi è solo la razionalità calcolante, la razionalità a mezzi fini, mentre ogni altra forma di pensiero viene squalificata. Ecco, e secondo me questo discorso funziona abbastanza se prendiamo, diciamo, in generale la linea, come dire, nominalistico-empiristica del pensiero moderno, questa volta veramente il pensiero moderno borghese. Per esempio, se prendiamo un Hobbes, per esempio, alcuni passi del Leviatano, beh, è esattamente, la conferma esattamente che questa è l'idea egemone della ragione che ha la borghesia e quindi la modernità, perché appunto Hobbes dice nel Leviatano: la ragione non è che un calcolo, un'addizione e una sottrazione. Oppure, ancora più bello, quello che dice poco più avanti, sempre nel Leviatano, dove appunto si mostra quanto, diciamo, non reggano poi i valori morali di fronte a questa ragione calcolante. Scrive appunto sempre Hobbes nel Leviatano: il valore di un uomo è, come di tutte le altre cose, il suo prezzo, cioè a dire quel che si darebbe per l'uso del suo potere, e perciò il valore dell'uomo non è assoluto, ma è una cosa dipendente dal bisogno e dal giudizio di un altro. Quindi ecco che cos'è la ragione strumentale: è la ragione dove appunto tutto diventa strumentalizzabile, compreso l'uomo stesso. Ecco, allora, In questa linea di pensiero, quindi, seguiamo lo sviluppo del movimento, appunto, del pensiero occidentale disincantato e illuministico, e lo possiamo seguire fino a quello che è la bestia nera, diciamo, degli autori di dialettica dell'illuminismo, e cioè il neopositivismo logico, Carnap e compagnia bella, cioè quelli che hanno esplicitamente teorizzato che non c'è niente tranne, appunto, le tautologie logiche e l'osservazione empirica, tutto il resto finisce. Qual è la conseguenza? Quindi la conseguenza è, appunto, quella diciamo sadiana, cioè ogni comportamento, diciamo così, purché possa produrre il piacere, è benvenuto. O, per dirla appunto con Horkheimer, la ragione moderna è incapace di produrre un argomento contro l'omicidio. Insomma, è una ragione che ha rinunciato a interrogarsi sui fini e che è diventata soltanto uno strumento per elaborare i migliori mezzi. Allora, questo è un tema, secondo me, enorme, che c'è nella dialettica dell'illuminismo e non solo. È il tema soprattutto horkheimeriano, perché poi Horkheimer lo sviluppa anche in un altro libro che si chiama Eclisse della ragione, che lui scrive in inglese, Eclipse of Reason, dove appunto contrappone ragione soggettiva e ragione oggettiva. Allora, la ragione soggettiva è appunto quella che ha rinunciato a interrogarsi sui fini, cioè che non è più in grado di elaborare un concetto di vita buona per l'uomo, come era in grado di fare la ragione oggettiva, cioè come erano in grado di fare, per esempio, Aristotele, quando ragionava sulle forme della vita buona, o Platone. Ecco, la ragione, diciamo, moderna strumentale, diventa una ragione eticamente neutralizzata, non è più in grado di dirci o di affrontare neanche il problema di quali siano i fini che meritano di essere perseguiti, quale sia per l'uomo il modo di vivere giusto e adeguato alla sua natura, eccetera. Allora, e quindi diciamo, illuminismo in questo senso è uguale a nichilismo. Allora, il problema qual è però a questo punto? Insomma, che dal punto di vista teorico abbiamo quindi una ragione ridotta a mero strumento, e dal punto di vista dell'analisi sociale abbiamo appunto una società ridotta a dominio della manipolazione, diciamo così. L'industria culturale, appunto, già lo diceva perfettamente Giacomo, l'industria culturale, tra l'altro, è una grande, come dire, scoperta, insomma, di questo libro, no? Perché ovviamente negli anni 40 nessuno si sognava di parlare di questo, cioè in Italia, per esempio, non c'era manco la televisione, quindi figuriamoci se si poteva pensare all'industria culturale. In Italia la televisione arriva negli anni 50, in America c'era già la televisione, c'era già Hollywood soprattutto, e però devo dire che lo Hollywood degli anni 30, insomma, se lo vediamo oggi, è qualcosa di altissimamente culturale rispetto a quello che poi è venuto dopo. Quindi il fatto che per loro Hollywood fosse quanto di peggio, diciamo così, già ci dice quanto degrado culturale abbiamo, cioè l'Hollywood degli anni 40, diciamo così, quanto degrado culturale è intercorso. Ma ci mette anche la radio dopo, Beh, la radio, certo, la radio senz'altro, la radio, quella è il grande il grande strumento di comunicazione poi dei regimi totalitari, no? Perché in Italia, Germania, eccetera. Comunque, insomma, allora, un quadro, appunto, che è un quadro abbastanza drammatico, no? Appunto, di una società totalmente manipolata, di un pensiero che si riduce a calcolo. Allora, non voglio farla troppo lunga, perché insomma abbiamo detto tante cose. Ecco, allora, va bene. Questo è il quadro, diciamo così, no? Quindi una descrizione estremamente lucida, estremamente negativa, non nel senso però, appunto, di dire che la scienza è il male o la ragione è il male. No, il male è appunto una ragione che si è sviluppata in una certa direzione, cioè che ha preso una certa direzione di sviluppo e che deve essere, diciamo, emendata da questa direzione di sviluppo. Questo è chiarissimo, insomma, cioè non è assolutamente vero che qui ci sia una demonizzazione della ragione o della scienza, insomma, ecco, anzi, e neanche della tecnica, perché molte volte vengono accomunati gli autori francofortesi, vengono accomunati a Heidegger, per esempio, nella critica della tecnica, no? Ecco, però le cose non stanno esattamente in questo modo, e lo si può vedere, per esempio, in un bel testo che è una specie di, forse qua potremmo considerarlo quasi un testamento spirituale di Adorno, perché è un testo che si chiama, perché lui ha pubblicato, diciamo, in due sedi. È la relazione introduttiva a un congresso tedesco di sociologia del, mi pare, 68, ed è anche la relazione tenuta al convegno su Marx, che sia un convegno, un grandissimo convegno su Marx che si tiene a Parigi nel 68. Quello dell'UNESCO, appunto, la relazione si chiama Tardo Capitalismo, Società Industriale, c'è questo concetto di tardo capitalismo, appunto, di Spätkapitalismus. Allora, cosa dice Adorno? Tanto per far vedere come non è vero che sono nemici della tecnica al modo heideggeriano. Dice Adorno, appunto, che bisogna evitare l'errore di addossare la colpa alla tecnica e di praticare quindi a livello teorico una sorta di luddismo su più vasta scala. Quindi il fatto di richiamare il luddismo, cioè, però non vogliamo essere nemici della tecnica. Fatale, cioè catastrofica, non è la tecnica, ma il suo intreccio con i rapporti sociali di cui è prigioniera. È l'interesse al profitto, spiega Adorno, che ha canalizzato lo sviluppo tecnico, orientandolo soprattutto verso la produzione di strumenti di distruzione e invece soffocando quelle potenzialità proprio della tecnica che si allontanano dal dominio, dal centralismo e dalla violazione della natura, e che consentirebbero anche di sanare molto di ciò che è stato letteralmente e metaforicamente guastato dalla tecnica. Quindi la tecnica non è assolutamente il male, anzi, è anche quello che dobbiamo utilizzare per risanare quelli che sono i mali della tecnica, ma sono i mali di un sistema di civiltà, diciamo. Questo, appunto, è un punto che andava sottolineato, perché invece continuamente si è scritto, appunto, che c'è lo stesso, Dio lo perdoni, lo stesso Habermas ha scritto in buona sostanza che Dio lo perdoni, perché lo stesso Habermas ha scritto che Adorno fa l'equazione tra ragione e dominio, ma non è vero, però dato questo quadro, allora che cosa succede? Ecco, a mio modo di vedere, finisco anch'io mettendo in risalto dei problemi, diciamo così, a mio modo di vedere emergono alcuni problemi di questa, insomma, teoria così interessante per altri versi. E quali sono, secondo il mio punto di vista, almeno metto in risalto due problemi che mi sembrano estremamente importanti, perché io credo, diciamo, che questa teoria abbia detto cose molto molto interessanti, e quindi ci tengo a vedere anche quello che non ha capito, perché forse vedendo anche quello che secondo me non ha capito si può fare di meglio, no? Cioè si può andare avanti nell'indagine e nella riflessione. Allora, un primo problema secondo me è, diciamo, la radicale impoliticità di questa teoria, cioè è diciamo un modo di guardare alla società dove, soprattutto questo, insomma, soprattutto negli anni, in questo momento, negli anni 40, no? È un modo di guardare alla società dove non c'è, diciamo così, proprio per niente la dimensione del conflitto, cioè non c'è l'idea che nella società si confrontano sempre forze antagonistiche che lottano per conquistare una egemonia sulle altre, cioè la società è molto più come dire, articolato e conflittuale di quanto non sembri se la guardiamo attraverso questa lente della manipolazione totale, per dirla semplicemente. Ecco, questo momento manca per una serie di ragioni, secondo me. Intanto, appunto, quando viene scritta quest'opera, La dialettica dell'illuminismo, appunto, viene scritta all'inizio degli anni 40, dove, insomma, il quadro è quello che è, cioè da una parte il fascismo e il nazismo, dall'altra lo stalinismo e una società americana che per questi intellettuali provenienti dall'Europa è qualcosa di, diciamo, è un orrore conformistico tale che, insomma, e poi loro ci si scontrano tutti i giorni perché cercano anche di inserirsi, per esempio Adorno si inserisce nei progetti di ricerca sulla radio che vengono svolti da fondazioni, eccetera, e lì tutto quello che lui dice non viene capito, ovviamente, ma di che cosa parli? Dobbiamo fare delle cose empiriche, dobbiamo numerare, contare, eccetera, no? Statistica, appunto. Quindi, vuol dire, è una forma di abbrutimento totale. Quindi non c'è nessun tipo, diciamo, di conflitto possibile, di conflitto reale, emancipativo possibile. E poi lo stesso discorso si ripete, diciamo così, quando questi studiosi, Adorno soprattutto, tornano in Germania, perché anche lì fare conflitto significa sentirsi dire: ah vabbè, ma allora volete andare nella Germania dell'Est, ok, quella è la porta. Cioè, è molto difficile fare conflitto nella Germania occidentale negli anni 50-60, perché gli si dice: ah, ma volete quell'altra roba, benissimo, quella è la frontiera, andate. Quindi, insomma, è, come dire, senza politica, no? Senza dinamiche conflittuali, è una società rappresentata senza politica, senza dinamiche conflittuali. E poi io credo che ci sia anche, come dire, una certa difficoltà, qui non so, forse Giacomo mi potrebbe correggere, potrebbe dire che sto dicendo una grande boiata, però io credo che sia proprio una difficoltà di molto pensiero tedesco a essere politico. Allora, diciamo che il vantaggio del pensiero italiano è che la politica ce l'ha, come dice il nostro amico Roberto Esposito, il vantaggio del pensiero italiano è che ha una forte politicità. I grandi del pensiero italiano sono dei grandi politici, e Machiavelli, lo stesso Croce, Gramsci, hanno la politica, ce l'hanno in ogni riga, diciamo così, no? Forse troppo? Ah, sicuramente. Ecco, invece lo svantaggio di tanto pensiero tedesco è che è veramente poco politico. Cioè, diciamo che la tentazione dell'impolitico, per riprendere il titolo del libro di Thomas Mann, c'è molto, insomma, no? E lo stesso Habermas, devo dire, è anche lui uno che non capiscono veramente la politica, insomma, in molti casi sembra che non capiscano la politica. Ecco, quindi c'è questa dimensione, appunto, questo grande limite, diciamo, dell'analisi sociale, che è la mancanza di una visione della società più conflittualmente articolata, più politica, più... E questo è un punto. L'altro punto, più complesso, diciamo, filosofico, è quello che riguarda, appunto, la concezione filosofica della critica che c'è in questo libro e anche in Adorno in generale. Allora, perché non va bene, diciamo così, la ragione strumentale? Perché non va bene, appunto, la ragione disincantata e nichilistica, e bisogna cercare qualche altra cosa? E cosa? Ecco, qui c'è il rapporto con la filosofia. È una questione molto complessa, e diciamo che, e poi è la questione sulla quale si innesta invece, secondo me, quello che è, diciamo, la giusta critica di Habermas a Adorno, eccetera. Perché? Perché la critica del come funziona la critica, insomma, perché la critica, appunto, della ragione illuministica? Beh, la critica, secondo Adorno, nel pensiero di Adorno, funziona secondo il modello hegeliano di quella che Hegel ha chiamato la negazione determinata. Che cosa vuol dire? Vuol dire, è un modello che si trova anche in certe pagine di Marx, eccetera, vuol dire che la critica di un certo modo di pensare o di una certa società non si costruisce a partire da un principio valoriale che ha una sua validità trascendente, trascendentale, filosofica, e con il quale si misura quello che abbiamo di fronte per dire questo non va bene, ok? Invece la critica è una sorta di sviluppo immanente di ciò che abbiamo di fronte. Quindi l'illuminismo ha in sé i potenziali di emancipazione, però bisogna mostrargli che questo potenziale di emancipazione, quando l'emancipazione viene confusa con l'autoaffermazione a tutti i costi, si perverte, diventa una forma nuovamente di asservimento, perché siamo asserviti dall'obbligo di autoaffermarci a tutti i costi, e quindi è un processo, diciamo, interno di negazione che deve portare all'emergere di una superiore consapevolezza. Questo è il meccanismo, in sostanza è il meccanismo che c'è in tutta la filosofia di Hegel, che non è altro che una susseguirsi di determinate figure, diciamo così, che vengono di volta in volta superate da altre che hanno maggiore ricchezza, maggiore articolazione, maggiore consapevolezza. Ecco, allora, questo modello di critica funziona? Beh, insomma, è un modello che si basa sull'idea che la, appunto, l'analisi di una certa figura concettuale o di un certo assetto sociale possa, attraverso le sue stesse, diciamo così, limiti interni, farci vedere cos'è il meglio. È un modello molto ipotecato, secondo me, un modello molto ipotecato, cioè un modello che risale, no, a questa originaria matrice hegeliana e, insomma, di uno Hegel che cerca di farci credere, diciamo così, che dalla critica stessa, quando appunto Hegel difende il concetto di negazione determinata, dice: ma la negazione di qualcosa non dà come risultato nulla, ma il nulla di quel qualcosa è un positivo, è un nuovo positivo, e così via, così via, così via. Allora, questo modello, diciamo, della critica dialettica, come dire, ha tanti problemi concettuali, e poi soprattutto come lo si svolge, per esempio, in una società dove non c'è niente più a cui appigliarsi, diciamo, per farne una critica dialettica, se fosse totalmente conformistica, eccetera, dove ci attacchiamo per fare una critica dall'interno, una critica dialettica? Allora, questo è, diciamo, il problema teorico-filosofico fondamentale, secondo me, che Adorno insomma vede in questo modo, e tra l'altro cerca anche, molto interessante, perché per esempio il rapporto tra Adorno e Horkheimer è un po' come quello tra Marx e Engels, cioè Horkheimer è un semplificatore inevitabilmente, no? Come Engels è un semplificatore di Marx, Horkheimer è un semplificatore di Adorno. E allora, su questa storia di come funziona questa dialettica tra ragione soggettiva e ragione oggettiva, cioè come si supera realmente la ragione soggettiva, c'è per esempio una cosa molto interessante quando Adorno legge l'Eclisse della ragione di Horkheimer, che appunto è tutto giocato su questa contrapposizione. Un tempo c'era la ragione oggettiva, quella classica, platonica, aristotelica, che ci insegnava come bisogna vivere, quali sono i fini giusti, cos'è la vita buona. Poi è venuta la ragione soggettiva moderna, che invece ci dice soltanto: se vuoi quello devi fare così, se vuoi quell'altro devi fare così, ma io sui valori non ti posso dire nulla. Allora, come si esce, come si ricostruisce, diciamo, una oggettività non metafisica, no? Cioè un sapere della vita e dei valori che non sia però, ecco, beh, insomma, non è facile. Allora Adorno legge questa ragione soggettiva, legge questo testo di Horkheimer e dice, e riassume così, ancora 2-3 minuti, sì, e riassume così, molto interessante, dice: bene, il testo descrive appunto il processo inarrestabile di formalizzazione e strumentalizzazione della ragione, nello stesso modo in cui Hegel ha trattato la Aufklärung nella fenomenologia dello spirito. Quello è sempre un riferimento interessante per loro, la trattazione hegeliana dell'Aufklärung, la fenomenologia dello spirito. Poi appunto svolge la critica di questa ragione, però, dice Adorno, ma bisogna chiarire il rapporto tra il punto di vista critico e quello criticato, cioè, in sostanza, bisogna, quello che Adorno dice è: la critica della ragione soggettiva, appunto, quindi formalistica, eccetera, è possibile solo sul piano dialettico, cioè mettendo in luce le contraddizioni del suo processo di sviluppo e superandole mediante la loro negazione determinata, cosa che, secondo lui, Horkheimer non riesce a fare in realtà, e quindi dice altrimenti ci troviamo di fronte a due contrapposti punti di vista filosofici e il tutto rimane teoricamente insoddisfacente. Ma funziona questa operazione dialettica di Adorno? Probabilmente no, ha molti problemi dentro, insomma. E allora eccolo là che arriva la, diciamo, critica habermasiana, quella che a me sembra condivisibile, e cioè dice: ma accettiamo che c'è, cioè partiamo dall'idea che c'è una qualche valorialità intrinseca della ragione stessa, che è la valorialità appunto del riconoscimento dell'altro come soggetto di comunicazione e di dialogo, e poi da qui facciamo la critica, insomma, no? Poi naturalmente magari Habermas se la perde per strada, però insomma, no, se la perde probabilmente per strada, però la insoddisfazione, diciamo, per il modello di una critica pensata come negazione determinata alla maniera hegeliana, che è il modello che Adorno cerca di realizzare, diciamo così, e che con difficoltà, insomma, che non riesce mai pienamente chiaro, pienamente perspicuo e soddisfacente, ecco, porta poi a, secondo me, a quella evoluzione della teoria critica, appunto, che abbiamo poi in Habermas, e così getto un ponte verso la lezione, la discussione habermasiana che avremo però molto più in là, il 20 aprile. Va bene, e ho finito, grazie. Che facciamo, una pausa? Facciamo una bene. Piccola pausa di 5 minuti. Ma cioè, avete il tempo di anche le gambe e ritornate a sedere. Diciamo che 5 minuti sono pochi. Sì, però gli diamo 5 per sì, perché poi diventano 10, certo. Ma a che ora, fino a che ora rimaniamo? Almeno la discussione quanto dura? Un'ora. Dipende, sì, almeno dipende. Sì, piatto, certo. Eh? Sì, sì. Sì, sì, certo. Intanto ci sarà una sorta che abbiamo già visto le solite due persone che non hanno male del cazzo. Ah, beh, quello purtroppo.